Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti gli amici e le amiche di Blu Radio Veneto, il nostro più affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ecco, Antonio, siamo qui anche stasera, che ormai siamo quasi alla fine di marzo, perché ormai ci manca poco, anche come sono passati in fretta sti giorni. Comunque, ti do la parola prima di annunciare il nostro ospite graditissimo. Naturalmente. Ecco. Allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. E un saluto naturalmente più che cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Esatto. E adesso presentiamo l'ospite della serata, che non è virtuale questa volta, ma è qui in carne e ossa. E parliamo niente poco di meno che il nostro amico poeta Emilio Gallina. Buonasera, Emilio. Buonasera a voi. Mamma mia. Bentornato. Grazie. No, mi mettete sempre in imbarazzo perché arriva il Padre Eterno. Anzi, dirò di più, ti interrompo pur cause, come direbbero i francesi, perché vogliamo mandare un saluto cordiale alla musa ispiratrice, che è la signora Amemusa. Amemusa. Diciamo in italiano. Grazie. Alla signora Ketty. Ciao Ketty. Penso che gradisca molto il vostro ricordo e il vostro saluto. Bene. Allora, prima di dare la parola al nostro amico Emilio, meglio che ci ascoltiamo una canzone che io l'ho scelta non a caso. Allora, la mia poesia cantata da Peppino Gagliardi. Eri un immenso azzurro, solo e soltanto mio. Sentivo solo te, parlavo solo a te, non c'era vento che ti portasse via. Eri la mia poesia. Eri la mia poesia. Un poeta, mi sentivo con te e cantavo le cose più belle, le cose più grandi, più dolci per te. Parlava la luna, parlava le stelle, a tutte le cose di te. Ed i sogni più belli del mondo, in fondo ai tuoi occhi, cercavo con te. Sentivo con te e cantavo le cose più belle, le cose più grandi, più dolci per te. Alla tua ingenuità, alla tua ingenuità. Eri una poesia, la mia poesia. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Emilio, al quale lasciamo la parola. Io vi ringrazio per avermi invitato e per questo incontro, che sarà un incontro un po', penso, fuori del normale, perché a differenza di parlare di un poeta o di uno scrittore o di una città o che so io, comunque quello che è nello spirito del Blu Radio Veneto, nonché Storia de Noi Altri, è mia intenzione di parlare di una realtà trevigiana che dal 1971 è presente in città, cioè parlare del circolo di poeti dialettali, gli amici della poesia e del SIL, che è il suo mensile, e appunto, come dicevo, che dal 71, e quindi sono passati mi pare 40 e rotti anni, sì, è 43. Presente, esatto. Continua la sua attività per valorizzare sì la poesia, logicamente la poesia dialettale, ma appunto anche in particolare il dialetto, per tenerlo vivo e tenere vive un po' le tradizioni della nostra terra, della nostra gente, e questo attraverso varie iniziative. In vari luoghi anche. Sì, beh, infatti incontri mensili, condizioni di poesie in vari luoghi, come ha accennato adesso la Gesi, con concorsi, con uscite in vari luoghi, anche qua e dopo ne parleremo, e in collaborazione con altri circoli analoghi al nostro, poi con le scuole e in particolare con varie associazioni culturali locali e venete. E questo perché l'idea mi è nata da un lavoro recente che il circolo ha, come dire, ha pensato e ha realizzato, e cioè raccogliere praticamente in volume una lunga serie di interviste che sono uscite appunto nel mensile del SIL, che Marcello Cocchetto ha fatto nel periodo in cui lui era, diremo così, come dire, direttore di questo mensile, e praticamente addirittura dal 72 al 96, sì. Ma non è stato abbastanza, però? 24. Sì. Ha fatto una bella... E le interviste sono moltissime, effettivamente, perché credo che siano oltre 160, con i nomi un po' altisonanti anche, perché adesso Antonio... lo prego di leggere un po', certo. Una nota che è uscita su Sport Trevigiano, adattata un po' per l'occasione. A firma del nostro ospite. Sì, grazie. Prima posso grazie. Chiedere una cosa? Dunque, qui c'è scritto Alberto Albanese Senior, sì? Perché ha anche un figlio. Dunque, per gli albanesi parleremo un momento dopo, quando parleremo dei fondatori. Adesso bom. Mi fermo a Marcello Cocchetto, che già va bene. Ci vorrebbe una trasmissione solo per lui. Solo per lui. Marcello Cocchetto, il cuore dei poeti. Interviste in dialetto e in lingua, collana de poesia e SIL, pagine 140. Volume originale questo, perché raccoglie tutte le interviste in lingua in vernacolo trevigiano apparse sul mensile e il SIL del Circolo dei Poeti Dialettali Amici della Poesia. Bene ha fatto la direzione a raccogliere in un volume queste interviste fatte da Marcello Cocchetto dal novembre del 72 all'agosto del 96, quando era redattore del giornale. Un lavoro che resta preziosa testimonianza della poesia dialettale e in lingua dei poeti trevigiani e del Triveneto, altrimenti destinata all'oblio. Scorrono nomi, volti e versi di un fervido periodo della poesia e della cultura trevigiana più in generale. Oltre ai poeti, sono presenti personaggi della pittura, della scultura, del teatro. Figure che hanno vivacizzato e onorato il circolo e la città, quali i poeti Andrea Cason, Alberto Albanese Senior, Gino Tommaselli, Wanda Casellato, Nico della Colezza, Adriana Scarpa, Anna Massera, Wanda Girardi Castellani, veronese, Checchi Zorzi, Ugo Stefanutti, veneziani, lo scultore Simon Benetton, Memi Gasparini incisore, Paolo Trevisi e Gino Cavalieri attori, Piero Pagnin, Corrado Girardi, direttori di prestigiosi cori trevigiani, Remigio Forcolin, Beppi Raffaele del Club Cento Barbe, solo per fare qualche esempio tra le oltre 160 interviste qui raccolte. Non nascondo la mia commozione nel rivedere i volti sorridenti di tanti amici che sono saliti nell'Olimpo della poesia e leggere i loro versi che accompagnano il loro dire. Non possiamo che essere riconoscenti a Marcello Cocchetto per il lavoro svolto in quegli anni con la sua proverbiale sensibile umanità e il suo amabile sorriso che ancora ci accompagna dalla sua casa di Santa Bona, una pubblicazione documento che farà onore alla poesia e alla città. Grazie Emilio. E grazie Antonio. Grazie. Sì, penso che proprio sia così, perché sono questi dei documenti che poi restano, perché infatti io ce l'ho qua davanti adesso, lo scorrere, c'è la fotografia dell'autore, la poesia e l'intervista. Ed è, per me è stato veramente emozionante rivedere tanti tanti amici come appunto avevo scribacchiato. E colgo anche l'occasione, adesso lui si arrabbia ma a me non importa niente, perché effettivamente lo voglio ringraziarlo di cuore per la stima e l'amicizia che mi riserva sempre, e lo ringrazio a nome di tutti i poeti e di tutti i trevigiani. E in particolare teniamo presente, non è stato solo così il redattore del SILA, ha lavorato tanto nel circolo, ma ha lavorato tanto per la città e ha fatto, condotto, fatto diretto incontri, ha fatto un macello di cose, con, sempre con quella discrezione, la preparazione e quel tatto così umano, signorile, che lo ha sempre distinto. Ed è bene ricordarlo e ricordarlo i trevigiani, perché è una delle figure, direi, molto molto importanti, anche se in disparte all'ombra, ma che ha lasciato un segno di sé. E così, per concludere, per non voglio dilungarmi, se non lui si arrabbia, come dicevo, pregherei a Gesi se ha la bontà di leggere una delle sue poesie, che ha vinto tra l'altro questa il primo premio nel concorso indetto appunto da uno di tanti del SIL, il Treviso Città d'Acque. Allora, pescar ancora. Te ricordi, Tosil, quando, Tosatel, te tagliavo i penaceti dei canei e i vendevo pascuete? Quando, vicin alle paere, facevo i scaurii coi spansae? Quando noavo contento e i tuo brombo entusiasmava, i bogui no tradiva e le erbasse me intorcoeava come una caressa. Anch'uo vegno a pescar i miei sogni de puteo e il coraio de tosato, e da sora un sarghier fasso un altro tuffo. E adesso prego Antonio di leggere invece i suoi famosi pomicacchi. Pomicacchi, perché... Pomicachi, zaipatochi, sul vostro sol ride a suca porsera e l'autunno conosce l'agonia. Picai, cantei in allegria, giurando che foglie cascarà prima e ore, vincendo a scommessa. Pomicachi, pomi che innamora, e se sprasso che incoraia, se ancora una illusion che l'istadea de San Martin non possa mai finir. Sfide l'inverno, ma su ste ultima e cartucce dell'autunno seghete affamae, s'impastroccia il beco finché se passue. E questa è una poesia che Marcello leggeva proprio con impegno, con gusto, specialmente la parte finale, finale. L'accompagnava quel gesto. Passue. Marcello, auguri da parte di tutti molti, Marcello. Forza, molti auguri. Che a tua gamba non ti tradisce ancora. Per me è una persona di una gentilezza, di una signorilità, penso di averne conosciute poche così. È vero, è vero. Possiamo dedicargli una canzone, Gesi? Sì, sì, sì. Le dedichiamo Il Mondo, cantato da Jimmy Fontana. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno di nuovo in studio e diamo la parola al nostro amico Emilio. Grazie Gesi. Dicevo che parlando appunto del Circolo Amici della Poesia, che il suo scopo era quello di diffondere e valorizzare il dialetto attraverso la poesia con un sacco di altre cose che poi vedremo quando parleremo della vita e dell'attività del circolo. Come è nato il circolo e questa nuova associazione? Da tempo Alberto Albanese Senior, che appunto ha sentito quasi la necessità naturale di fermare, formare questa associazione, e ha pensato di appunto, contattando Andrea Cason, di dar vita a questa nuova realtà. E appunto, chiedendo poi la collaborazione di Marcello Cocchetto subito, di Alberto Albanese Junior, infatti la Gesi mi domandava Albanese Senior perché il figlio, che tra l'altro è il fondatore del premio San Paolo qua di, quello di Santa, sì. Qua di San Paolo, sì. Sì. E poeta anche lui, era stato nominato subito segretario effettivamente, e poi la redattrice inizialmente era la Bruna Brazzalotto, che ancora resiste, sì, è ancora in attività. E cominciato a riunirsi così un po' in osteria da qualche parte e buttare giù qualche idea, e in effetti da quella scintilla è partito proprio un fuoco. E di Alberto Albanese, parentesi, gli Albanesi è una famiglia di poeti, perché oltre ai due Alberti c'è anche la sorella di loro, Bertilla, poi Mario e Carlo, tutti poeti, più qualche nipote, certo. Ecco, senza perdere altro tempo, io pregherei a Gesi, sì, di leggere una nota che è stata, mi sono permesso di creare, e poi anche un commento di Andrea Cason su Albanese. Allora, Alberto Albanese nasce a Treviso nel mese di settembre del 1903. La sua infanzia e la sua gioventù l'ha trascorsa per motivi familiari prima a Bologna, poi a Treviso, dove ha frequentato le scuole elementari, quindi Padova e ancora Treviso. La Grande Guerra lo ha portato profugo a Loreto Aprontino e a Penne, Teramo, dove ha frequentato il primo corso d'arte e mestieri. Nel 1923, durante il servizio militare, ha cominciato a scrivere i suoi primi versi in lingua e successivamente, con molto entusiasmo, in dialetto trevigiano. Questo perché sentiva più viva in lui la voce che nasce dalla madre terra. Dalla pubblicazione del suo primo libro, Prime Foglie, 1941, e fino alla nascita del circolo degli Amici della Poesia, il SIL, 1970, la sua attività poetica ha avuto momenti intensi e altri di difficoltà dovuta a motivi di lavoro e di famiglia. Ha sofferto le conseguenze del bombardamento di Treviso. In ricordo del tragico evento ha scritto quello che potrebbe essere il suo capolavoro, Venere Santo, 7 aprile 1944. Poesia letta alla presenza dell'autorità e della cittadinanza nel 30° anniversario del tragico evento che colpì la città. Con la nascita del circolo ha, nel contempo, dato vita a El Sil, il foglio, diventato poi mensile che egli ha allevato e coccolato fino a quando, nel novembre del 1975, in punta di piedi se n'è andato. Il circolo e il mensile continuano tuttora il loro percorso. Grazie Gesi. Ecco, Cason ha dedicato nella prefazione al suo, direi, secondo libro di poesie in dialetto trevigiano, Maci d'inchiostro. Nella introduzione ho estrapolato questo commento che mi pareva molto interessante. Allora, Alberto Albanese Senior cominciò a scrivere poesie nel 1923 mentre prestava servizio militare a Piacenza. Era forse quello un modo per passare le ore di libera uscita lontano da casa, magari con pochi soldi in tasca, sul filo di un'acuta nostalgia per il cielo e le acque della nostra cara Treviso. Erano i primi versi in lingua nei quali egli non si ritrovava, anche per l'ostilità di una musica che sentiva non essere sua, come cresciuta dentro un altro, senza radici nella sua vita. Dovevano passare quasi 20 anni perché Alberto potesse dare le stampe quel suo libretto di poesie in dialetto, Prime Foglie, 1941, che segnò il suo felice ingresso nella cerchia dei poeti dialettali. Alberto era davvero un poeta nostrano, e proprio nel senso che i fatti ed i momenti che ha saputo e voluto cantare sono anche nostri, possono essere di tutti quelli che in una trevisanità autentica sanno trovare il gusto di certi ritrattini, specie femminili, o l'ironia di certi raccontini che hanno il rapido guizzare dell'aneddoto popolaresco, ma anche il sale bonario di una beffa tra amici. Nella cerchia dei poeti veneti, Alberto Albanese Senior ha un suo posto preciso, non sostituibile, affettuosamente trevigiano, ma il suo merito continua a vivere anche in quelli e in quelle che egli ha saputo, con delicata sensibilità, incoraggiare e spingere nel prato della nostra poesia in dialetto. Bene. Sì, mi pare che l'abbia centrato la figura. Egregio, sì, purtroppo sì. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, se non perché sono entrato più tardi nel circolo. Hai conosciuto il figlio però? Sì, beh, sì, amici con Alberto, effettivamente. Ma anche con gli altri fratelli, con la Bertilla e anche con Mario. Carlo si è un po' defilato un pochino, anche perché è andato a abitare, mi pare che sia abiti a Carbonera. Ma scrive questo, anche il, scusami. No, dimmi. Il figlio scrive anche lui poesie? Chi, Alberto? Sì. Sì. Ha pubblicato un suo volume di poesie dialettali, anche lui con il papà è molto innamorato della famiglia, come lo era il papà, cioè un gioco di parole, cioè il senior ha vissuto la sua famiglia in maniera, l'ha sentita in maniera forte, come la sente Alberto in questo caso, infatti. Sì. E non so, a questo punto mandiamo una canzone o leggiamo due o tre poesie? Leggiamo tre poesie. Allora, cominci, chi è che comincia? Facciamo pari disparo? No, comincia Emilio. Sì, dai, sì. A me mujer, proprio per fermare quello che ho appena detto. allora erano tempi grandi e quindi le difficoltà erano enormi. Però forse si era più sereni di adesso. Sì, è vero questo, però la sofferenza, sì. La sofferenza c'era. La vita la tiremo avanti a rate. Questa paghetta tanto smilsa e seca, quei debiti, i pensieri se combatte, tanto che parri varghe, fio in steca. Ma a pazienza mia goda frate, e a tutto passo sora coe ameca, e me contento ancora se golate, e poentina invece de bisteca. Saria contento di aver anche manco de quel che go, di lavorar par sento, e giorno e notte non saria mai stanco. Che tutto questo passa in ti un momento, se mi te govi sin stretta al mio fianco, perché so io e il tuo ben mi fa contento. Bella. Ai a me musa. Ah. Vedendomi distratto e in grande affar, a musa e a me fa capricciosa, come che fa purtroppo qualche tosa se ia trascura o noia sa frenar. E mi che non ho tempo da strassar, adesso non abado sta ritrosa, a se muè pur farra dispettosa, finché ho tanti affari da badar. Però vegnerà il giorno che sarò libero da ogni impegno e da pastissi, e ora co amor accurerò, abbandonando il sogo e i cari amissi, e sempre il fianco mi attegnerò per soddisfar poetici caprissi. Bella questa qui, questa finale. Allora, una parola. Cosa sia in fondo una parola? La può essere un tutto e anche niente. Però la può far ben o mal da sua, secondo come dita o chi la sente. L'addio, se s'è dito con rancor, da amorosa quando a te assa, sta parola può darte un tonfo al cuor, oppur ridurte l'uomo fa una strassa. Invece, no, te tocchi il firmamento, se la parola tanto combattua, la che vien fora sia pur a stento, ma la ti dice chiaro e netto, tua. Bellissima. Sì. E a proposito di ritrattini femminili, no, che citava Cason, ho scelto questo, il ritratto dell'Ada, grande, slanciata, alquanto rotondeta, viso paffuteo, bianco e rosa, cavei di un bel castagna e una bocchetta cui lavari de fogo un fia carnosa. Dolcioni birichini bruno scuro, e il modo de sorridar pien de grazia, e qui ho de parlar se franco e puro, insomma è agà quel che un uomo sasia. Però, perché il ritratto sia completo, dico che una virtù l'aga su tutte, che impera, e se lo vede dall'aspetto, che ha il ritratto di Assaiute. Questa è di Cason? No, questa è sempre, sempre di Albanese. Sì. Sempre di Albanese. Sì. Bene, adesso ci ascoltiamo una canzone? Sì, ok. Ecco. Allora ci ascoltiamo una canzone cantata da Annalisa Minetti, Treno Blu. Il treno blu. E allora senso della nostra vita, prima ancora che sia finita, sperando nel domani che verrà e qualcosa cambierà, per non prendere mai più quel treno blu. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Emilio. Ecco, direi di continuare, visto la che lettura, ci siamo, la lettura, certo, di altri, un certo, paio, certo, di poesie ancora di Alberto Albanese. Allora, sì. Comincio io con El Neo. El Neo. El Neo se chiama città scura, che il punto messo è a più o manco ben, un scherzo se può dire della natura, sul viso oppure sul corpo, dove il vien. Nel 700, fra pomate e raso, fra cipia, parrucche e minueti, gera de moda un neo in fianco al naso, un neo in cipria dei più perfetti. Anca ti sua tua fronte te ga un neo, e non te stona, anzi, el te sta ben, facendo del tuo visetto che zebeo, più beo ancora, più fresco, più seren. Sempre vardar che il neo mi voria, e nel vardar pensare a st'altri sconti, a st'altri che ga più civetteria, che ise certo i pibei senza confronti. Era birichino, era un po' birichino. Leggermente, ecco. La Jenny che ci legge? Io vi leggo vecchi ricordi. Cotteggeri potea e si sogava a scondersi ai colori, ai baete, i miei occhi su di mai destacava. E i tuoi sono di me, i c'era saette. Se poi tu manine se ciappava e me man per far le piroette, a quel contatto il cuor me si infiammava. Ma ste passion doveva star segrete. Perché se me avesse confidà, t'avaria fatto forse un brutto effetto e parole d'un poro di spera. Segreto il c'era. E se resta segreto, lo sforzi che m'ha tanto torturà, e questo perché gera porito. È proprio così. Mio. Mamma mia. Sì, direi fare l'ultimo giro, se ci state, ecco, volevo leggere Anniversario. Certo. Accennavo prima, mi pare Cason o la Gesi, sul 7 aprile del 44, sì, la poesia, sì, di Albanese, sì, che effettivamente è molto lunga e ho preferito fare questa. Ne ha scritto un'altra in un'altra occasione, ma sempre l'anniversario del bombardamento. E ha avuto molto successo quella poesia, quando l'ha letta più volte. E so che nel trentesimo anniversario. Nel trentesimo anche, quindi mi pare. Nel 74. Nel 74, diciamo. Io penso nell'84, credo, c'è stata la banda cittadina alla Camera di Commercio, dove io ho letto il mio 7 aprile del 44, più un altro amico ha letto quella poesia, sempre per ricordare questa tragica incursione. Anniversario. 7 aprile, una data anniversario de tristesse, de scianti, de dolori, ogni anno cotevien, salsa un veario che verse tante piaghe in tanti cuori. E passa, come allora, una vision davanti ai occhi, tutto quel sconquasso, quella tremenda strage nel repeton, quel rovinar de case, il polvaraso. E se nessun disturba e attomente, te senti un fiac confusi, i mormori, i pianti, i sighi, i urli de asente in cerca dei suoi morti e i suoi ferii. Te senti ancora come in sottofondo il famoso rombar dei reoplani, le canonae, i scianti, il finimondo, anche se si passa quasi 30 anni. Chi può desventegar sta giornata trista, giornata di rovini e lutti, e a nostra Treviso martoriada, coi suoi disgrazie, a voi un fiato a tutti. Questa che hanno letto nel trentennale, no, questa l'ho letto 7 aprile del 44, che che io ce l'ho qua, è lunghissima, è molto pregnante, diremo, certo, così, certo. Perché descrive proprio la tragedia di quel giorno, tragedia, praticamente. Certo, sì. Certo. Eventualmente sì, ci sarà un piccolo spazietto. A me vedremo, casomai la fido a Antonio che è bravo. Allora, nel frattempo però usiamo un argomento che sia un pochino più leggero. Certo, certo. I brutti scherzi dell'amor. E amor, sto gran furbasso, stamattina il nega visto in strada e si afferma. E dopo averme data nocciadina, a freccia dal suo arco il gascocà. Natosa codocci d'assassina passava in quea, il cuor me sa infiamà e senza pi badarghe, signorina, che dico, a permetta, no sa che mi col cuor che sanguina parea e innamorà soltanto caspeton perché asen amor, asen astea. Ah sì, a me risponde, massa bon, mi voglio darghe una risposta bea. E sul mio viso arriva un stramuson. Va bene. Andiamo avanti, finiamo. Sì. Che, sì. Il gran teatro. Cosa sia la vita? Una farsa? Una commedia? Una tragedia? Ma la potria essere questa, quea, st'altra, secondo il modo che sapemo recitar, secondo il modo che se comportemo dal dì che se nasce al dì che se muore. Tutto quello che ne sei intorno non se altro che un gran palcoscenico e una gran platea dove noi altri semo attori e spettatori nello stesso tempo. Era un uomo coi piedi per terra, molto effettivamente. D'altro canto, ha descritto molto bene quello che è la nostra realtà quotidiana, nonché umana. Caro Emilio, io ho imparato a leggere il dialetto per merito tuo. Per merito tuo. Mi fa piacere. Perché io sono, sì? Adesso lo leggo con molta facilità. Ti devo assicurare, dire proprio la verità. I primi tempi, eh? I primi tempi è stata dura. Mi fa piacere. Ecco. Io invece sono entrato nel mondo della poesia, in dialetto e nel circolo, lo devo a Marcello Cucchetto, tra le tante cose. Accennavamo ai fondatori e quindi abbiamo parlato di Albanese e adesso dovrei parlare di Andrea Cason. Mm-hmm. Però qua di Andrea Cason, non per svalutare il buon Alberto, ma Cason meriterebbe una serie di incontri, perché è stato veramente per Treviso, la Treviso culturale, e non solo, un gran personaggio. Io qua davanti avevo fatto un prospetto un tempo per presentarlo in un'altra occasione. Sì. C'è un foglio pieno di pubblicazioni, di date, e lo ricordo sempre con grande commozione, perché mi è stato un maestro straordinario, di una umanità veramente, veramente eccezionale. Mi limiterei, se siete d'accordo, di leggere un paio di poesie. Sì, anch'io lo ricordo con vero, vero, vero piacere, perché è stato in radio qui. Sì, infatti conduceva cos'era qui? Era il programma. Il mio? No, forse... Ah, no, non era qua, probabilmente, mi sbaglio. No, è stato qui anche era, da me, c'è, ma... C'è qui Pronto Poesia, deve essere stata fatta con un'altra emittente che era in Via Canova un tempo. Ah, ho capito quale, Radio 80 era. Mi sfugge il nome. Sì, comunque qui è stato due volte con la sua signora, e so che a lui piaceva tanto leggere le poesie di Catullo. Sì, ma infatti lui è, tra l'altro, è traduttore, sì, ha tradotto, sì, in dialetto trevigiano i Carmi di Catullo e altri. Scusate se è poco. Direi proprio di sì. Mi è rimasto impresso proprio perché era una persona veramente... straordinaria, sì, poi sì, oltretutto era di un'arguzia, di una simpatia unica. Veramente, veramente, guai se fosse qui adesso. Non me lo dire. Vabbè. Allora, Antonio, mi leggi la bontà? Allora io con la bontà. Sì. Quel che dun crede che non sia più de moda, desso che tutti core e ga tanta pressa, e non si accorge de niente, gnanca de primavera col suo verde de acqua. Invece a bontase sempre qua, come un profumo de vaniglia sora a neve pena cascada, come ste nei occhi dei putei, come il tremar de aman dei veci, come una rosa in tel cuor de namorosa. Sì, a bontase un caldo che te vien dentro e te fa novo, come un albaro che torna sempre a sogar coe foglie pena nate e i nii che genasse sui rami. Molto bella però questa molto qui, bella. Oh, perché è bellissima. La Gesi accennava appunto alla visita di Cason qua con la Adelina, con sua moglie, e da il suo libro Trio dell'acqua vorrei leggere Lettera, che mi commuove sempre. Lettera. Adesso che tu ti sei in letto e a casa sei ferma e respira de sono, mi te voglio ben e te scrivo sora sta carta in dove casca il sporco de a pipa. Fora, una piovetta fina sbusa e lontananse strissai dai freni de un'automobile e mi torno giovane e coro cotiso a canna de a bicicletta verso e a ferrovia, verso che a svolta misteriosa dei binari che cascava dentro una campagna piena de parlar dei sisie. Bella anche questa. Ascolta Emilio, io volevo chiederti una cosa. Sì? Fai un tuffo nel passato. Dimmi tutto. Raccontaci un pochino così i primi mesi del SIL, com'era, come... Beh, guarda, direi adesso di parlare, cioè il SIL, chiudendo un po' sto l'argomento dei fondatori, vorrei parlare un momento del giornalino, del mensile, il SIL. Sì, ma non è avevo... nato contemporaneamente, sì. Praticamente il mese quando è uscito, come ha sì. fondato il Circolo ufficialmente, sì. Ha dato idea di fare sto notiziario. Si chiamava notiziario, infatti che non era si chiamava un foglio solo, un vero? Foglio, sì. Non si chiamava il SIL. Il mese successivo, cioè questo era luglio, nel mese di agosto, si sono riuniti ancora il gruppetto che fondatori. Avevo ricordato e hanno dato il titolo appunto il SIL, con un sottofondo dove il SIL e Cagnan si accompagnano verso il verso classico di Dante, sì, sì. per Treviso. E da lì praticamente è partito sempre prima con un foglio, poi è arrivato il foglio doppio, là, come diavolo si chiama. Si chiama Lino, sì. E praticamente sta uscendo ancora. Sì. E i primi tempi è una cosa impensabile, guardate. Se tenete presente che il giornalino veniva stampato a Spresiano e che Albanese prima e Marcello dopo andavano a Spresiano in bicicletta a portare prima la bozza, poi a correggere le bozze, poi prendere il giornale quando era pronto per distribuirlo. Che bravi, mamma mia, che bravi. Era una cosa veramente. Quindi tu c'era motivazione profonda. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Parlando di questa cosa, vi fai capire che il clima era molto diverso. Eh beh, direi proprio. Era il clima, la temperie sociale che era decisamente diversa, giustamente. L'Albanese tra l'altro era nato nel 1903, quindi sai, aveva sulle spalle qualcosa di un bagaglio, solido, uno zaino di sacrificio che non lo fermava mai. Quindi è stata una cosa straordinaria. E l'idea di questo foglio è nata partendo dall'analogo foglio del Circolo Veneziano, dal Burchiello, sì. che è stato così, non so se fondato o comunque benedetto da Diego Valeri, che sto Burchiello va pian, va san, va lontano. Comunque a me piacciono le poesie di Diego Valeri. Ha avuto questa idea, con questi sacrifici si è sempre andato avanti e continua a farlo. Adesso si può... si può avere la come dire, si può averlo anche online. Sì, digitando il sito www.trevisoeasi, non so se si pronuncia così, easy.it, e là si può diremo così consultare sto giornaliero, sto mensile, il sì. Adesso siete a Ca' dei Caravesi addirittura, vero? Ecco qua, andiamo un po' andiamo un po' alla vita del circolo. Inizialmente, come avevi detto tu, se si trovava in vari luoghi, in effetti inizialmente i circolanti, cioè sì, i soci che formavano il direttivo, i soci che volevano, si trovavano un po' dappertutto, in osterie, nelle varie osterie in particolare. Magari il Ponte d'Anche. Si sono trovati spesse volte ad Arenato, al Cristo, anche al Bassanello, qua fuori, sì. Al Boschetto. E anche da Reis. Io pensavo al Ponte Dante, perché so che... No, al Ponte Dante non lo ricordo. Si andava al, come nel Boschetto, da Lagrema, da Malossi. Ricordo che tante volte si è andati Arturo là. Arturo Malossi. Lì ci si trovava, si discuteva. Io parlo di quando sono entrato, perché prima per me non lo conoscevo. No, e quindi esatto. Quando sei entrato? Dovrei essere entrato, e anche qua poi lo dirò, verso la metà degli anni 70, quindi 5-6 anni dopo della fondazione. E anche casualmente, perché adesso poi lo diremo, appunto ci si trovava in questi luoghi dove appunto si discuteva, si leggevano anche di poesie, e nel maggio del 74, in un'assemblea presieduta da Alberto Albanese, furono fatte le prime elezioni, cioè prima nomina per prima, si trovava così, presidente, era una cosa così bonaria, senza pretese, un vicepresidente, e in quell'occasione è stato fatto il direttivo, che era composto appunto è stato eletto presidente Andrea Cason, segretario Alberto Albanese Junior, il direttore del SIL il senior invece, e la Bruna Brazzolotto, il cavaliere Luigi Rossi e Olevo Cartapati erano poi i consiglieri, e si è andato avanti per un pezzo. E infatti, dopo tanto girovagare, che abbia avuto anche degli sponsor effettivamente, perché il SIL altrimenti non si sarebbe potuto mantenere. Dobbiamo ringraziare molto l'avvocato Dino De Poli, che era presidente della Fondazione Casamarca, che oltre a dare un contributo ci ha messo a disposizione allora, parlo di molti anni fa, alcuni anni fa, la sala dei Britoli a Cadi Carraresi, c'è questa bellissima sala, e ci ha ospitato per parecchi anni, fino a quando, con l'inizio delle mostre sugli impressionisti che è stato organizzato da Marco Goldin, esatto, ci hanno sfrattato, e là abbiamo cominciato a girovagare. E siamo stati anche in altri posti abbastanza prestigiosi, come il Palazzo dell'Umanesimo Latino per un lungo pezzo, poi il Palazzo Giacomelli e il Palazzo Scotti, e sempre sedi istituzionali. Si è stati un po', come dire, un po' di sballottati. E per fortuna, recentemente, direi dall'inizio dell'anno, siamo tornati a Cadi Carraresi, a Sala dei Britoni, e questo mi ha fatto molto molto molto piacere. Gli incontri sono diventati tradizionali ormai. C'è sempre... Sì, che prima di... che prima di... Meglio che ascoltiamo una canzone. Così lasciamo libera poi. Allora ci ascoltiamo, cantata dai Camaleonti, Eternità. Stare qui al sapore delle... Dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, no, perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia. Sugar! fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Sul soffitto passa un angelo per me, non ti sveglierò, oh no, no, no, perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia. Siamo di nuovo in studio con la tranche finale che lasciamo naturalmente di ricordi, emozioni e sentimenti con il nostro amico Emilio. E vi ringrazio. Stavo dicendo di come funzionano gli incontri mensili. Esatto. Dunque l'incontro si tiene ogni ultimo martedì di ogni mese, a eccezione di agosto, che siccome si vanno tutti a prendere un po' il sole, si chiude baracca momentaneamente. Sì. Comunque è a scansione proprio. Sì, sì, proprio è diremo così, l'ultimo martedì del mese. Ecco, sì, direi che da sempre è andato avanti così. Okay. E gli incontri come si svolgono? Vi è un saluto al presidente, logicamente, e la presentazione di un autore con i suoi libri o con quello che si deve fare, c'è questo primo momento, poi un intervento, diremo così, letterario, che è tenuto dalla Giustina Menegazzi Barcati, che parla di un poeta tra i grandi, classico, logicamente, sì. Classico, e poi c'è il rondò dei poeti, cioè ognuno legge le sue poesie, la sua poesia, e così indicativamente questo è un po' l'andamento dell'incontro. Ecco, sì. Ecco, quello che mi sono permesso così, però manca quello che è poi il colloquio dopo, no? Cioè, non solo per leggere, ma sì, anche sì, parlare di poesia. Vi ricordo che è venuto Paolo Ruffilli, e c'era qualcuno che sbuffava perché Paolo Ruffilli ha tenuto una lezione sull'importanza della poesia, certo, con annessi e connessi. Era che guardava, uffa, non amoia più, non amoia più. Ma è proprio quella parte più interessante. Intervenire, dire che si vergognassero, insomma. vai. Sì, perché domando scusa di sto. No, ma perché capire è fondamentale. Cancello tutto. Cioè, il clima dei primi incontri era un clima veramente conviviale. Immagino, lo immagino. Straordinaria, più essendo anche che veniva anche Katie in quel periodo là. Ah, no? Sì? Era, tra l'altro, un'altra realtà. L'imbustazione del SIL, non so se si dica così, cioè l'imbustare e mandarlo, esatto, si trovava a casa di qualcuno, per tanti anni, da Marcello Cocchetto. Anche e quello. E poi dai Schiavinato, dei coniugi Schiavinato, che sono un'altra coppia storica per il SIL. E anche là poi si faceva, ci banchettava un pochino. Era proprio un clima così di molta familiarità, di molta come serenità. Come era un po' dappertutto, però. In quei periodi là, molto più di adesso. Adesso tanti Musiduri e Barretta Fracada adesso. Certo. Più o meno. Esatto. Anche qua io ho trovato molto cambiato il clima all'interno del circolo. Voi perché purtroppo parecchi se ne sono andati, via dal circolo, per età e per altri malanni. E mi trovo un po' tra i più anziani e sento la mancanza di queste persone. Il circolo ha fatto un sacco di attività, ha organizzato un sacco di concorsi e praticamente il primo è partito proprio nell'ottobre. In luglio è nato il circolo, nel 71 nell'ottobre è nato il primo concorso, che era Zoghi e Poesia. E se vogliamo, adesso non ne cito nessuno, ma ne citerò uno per un motivo particolare. L'ultimo, che è ancora in auge, che è ancora aperto, che è Ode alla bellezza, a proposito di bellezza, no? Ode alla bellezza, che scade in questi giorni. e sono stati veramente tanti, in collaborazione di altri circoli e con altri, anche altre organizzazioni locali. E perché ne cito uno? Perché nell'anno 76, novembre 76, ho partecipato al primo concorso, che ero appena entrato, spinto da Marcello Cocchetto, sempre, ecco, sto traditore, beh, sì, e avevo presentato Campane Pardot, ah, ecco, che ha vinto il primo premio. Ah, bene, ecco, bene. Allora c'è un motivo, e quindi mi ha fatto molto piacere, quello è stato l'input che mi ha fatto, insomma, ecco, uscire allo scoperto. Bene. E lì sarebbe da citare un po' praticamente tutte le collaborazioni fatte con gli altri circoli, tipo il Club Cento Barbe, che credo sia sparito, il Ponte della Bontà, la Congrea Salvaguardia delle Tradizioni Locali, certo, che ancora, certo, invece ancora c'è, funziona. E qui particolarmente centriamo col Beato Erico e San Liberale, i due momenti particolari. Perfetto. E poi ci sarebbe da dire e ridire un sacco di cose. Come i convegni, io ricordo il più importante che è stato fatto in collaborazione con gli amici del Burchiello, è stato nel giugno 75, che è stato fatto a Treviso, ma in grande stile, con la messa alle mattino, i convegni, dedicati al dialetto, sì, è stata molto importante. Bello. Si è andati anche un po' in giro per le nostre zone, vi sarebbe da ricordare tante cose, il Cansiglio, il Montello, l'Ose di Cervara, Villa Lantris, in occasione di vari, sì. varie ricorrenze. E direi che è molto importante, tra l'altro un'altra cosa è stato fatto un video che dedicato al SIL Fiume di Poesia, dove Marcello bello. E poi, dove importantissimo, invece, scusa? Il Marcello Cocchetto faceva il misterioso, cioè era un discorso molto, molto interessante. Perché, e l'ultimo? Ecco, l'ultimo, che è una cosa importante, invece il circolo ha curato la Biennale del Libro Inedito, che questo praticamente è dedicato ai scrittori della Marca Trevigiana, che è stata iniziata in primis da Franco Vicentini nel gruppo Beltran Russell, di cui siamo riconoscenti, Treviso dovrebbe essere riconoscente a sto ragazzo. Il patrimonio librario poi venne ceduto al nostro circolo, che in collaborazione con la Fondazione Cassamarca abbiamo continuato le mostre. Perfetto. E si è continuato, che è importante, la stesura di tre cataloghi, tre edizioni del catalogo degli autori trevigiani. Quindi avremo materiale per un'altra volta. Sì, beh, ci sarebbe molto da dire. Sì. Vabbè, caro, preparati ancora, perché sarà, ecco. Nel frattempo non ci resta altro che ringraziare sentitamente il nostro ospite. Io ringrazio voi e, che dire, tanto ci sarebbe altro da dire, ma alla prossima. Contentemosi. Esatto. Salutiamo anche la signora Ketty. Naturalmente. Ecco, che sarà contenta, sono convinta che sarà contenta della trasmissione. Cordiale saluto a tutti e vi ciao poesia. Giulio, grazie. Ciao, bravo, ciao. E io come sempre saluto il mio amico Antonio e vi dico ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.